Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti, eccoci qua come ogni domenica per passare un'oretta in compagnia. Salutiamo il mio partner. Buonasera Gesù. Buonasera. Ciao, buonasera. E un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88.70 e 94.60 in FM. Per chi lo desidera c'è la possibilità di seguire il programma in streaming o di scaricare il podcast dal sito bluradioveneto.it. Stasera abbiamo con noi una persona molto importante, abbiamo l'avvocato Letizia Ortica, che salutiamo cordialmente. Buonasera. Buonasera, saluto voi tutti e vi ringrazio di avermi voluta qui con voi. Per noi è veramente un piacere. E di che cosa ci parlerai stasera? Le storie de Noaltri, io sono una veneta, mi piace questo Noaltri perché perfetto. Racchiude un po' tutte le relazioni. Benissimo. Io sono una donna di relazioni, quindi mi piace molto il titolo della trasmissione. Perfetto. Allora passiamo al primo brano musicale che è, stasera facciamo tutto Baglioni. Quindi la prima canzone è Una favola blu. Una tavola blu, il mare con tante barche laggiù. Forse l'estate è già qui, c'è il sole ma non per tutti è così. Stesse facce vedrò, ragazzi che si ritrovano qui. Un grande prato sarà la spiaggia quando la sera verrà. Una favola blu, il tuo amore per me. Penso e ripenso che ormai ho perduto te. Ed eccoci in studio con alcune notizie, diciamo, biografiche sulla nostra ospite. Nata a Treviso, diplomata al Liceo Classico Canova, studia giurisprudenza all'Università di Padova, si laurea a Ferrara con tesi in diritto civile sulla mediazione. Dopo un'esperienza triennale nel settore bancario, supera l'esame di procuratore a Venezia nel 1980. È avvocato cassazionista, abilitata all'esercizio della pratica collaborativa. membro dell'AIAF, Associazione Italiana degli Avvocati di Famiglia, e dell'Associazione Giuristi Cattolici. L'avvocato Ortica si occupa di diritto civile, con particolare riguardo al diritto di famiglia dei minori. Ha maturato una lunga esperienza nel settore del riconoscimento-disconoscimento di paternità e si adopera attivamente in sede stragiudiziale per conciliazione delle controversie. È esperta nelle questioni immobiliari di recupero crediti. È iscritta nelle liste degli avvocati che prestano il gratuito patrocinio per le persone che ne possiedono i requisiti. Per lunghi anni pubblica amministratrice e per altre esperienze sociali e di volontariato lo lasciamo raccontare alla nostra ospite. Sì. Grazie di questa presentazione. Non ricordavo neppure di aver fatto tante cose, ma tante altre non sono state menzionate perché nella mia vita, ormai abbastanza lunga, ho fatto molte cose, come tutti voi naturalmente. Sono avvocato con particolare competenza nel diritto di famiglia e, come è stato ricordato, ho appunto avuto molti casi che riguardano il riconoscimento di paternità naturale. E questo è un argomento davvero importante perché riguarda la ricerca dell'identità della persona. La persona cerca sempre di sapere chi è uno dei diritti fondamentali. È vero, sì. La mia esperienza dunque inizia con un riconoscimento giudiziale di paternità. Pensa, proprio la prima causa che mi è stata affidata. Ah. Ero giovanissima e la cosa mi aveva veramente molto colpito perché si vedeva in questa persona una richiesta di aiuto per poter ritrovare, riannodare i fili della propria vita e di trovare la propria storia, la propria origine, come è giusto che sia per tutti noi. Certo. Ma naturalmente tutta la mia storia è costellata di casi veramente particolari e tante volte mi dico da sola che la realtà è molto molto più fantasiosa di quanto può essere la più fervida immaginazione. Ci sono dei casi veramente molto molto particolari, talvolta anche buffi, talvolta anche drammatici. Tanto è vero che ho pensato che un domani, magari quando avrò più tempo, mi siederò al tavolino e coltiverò la mia seconda passione, che è quella della scrittura. Saggia decisione, sì. Una testimonianza, diciamo. Ecco. Certo, una testimonianza a flash, senza ricordare le persone, i casi che sono sempre molto riservati. Raccontare invece storie di varia umanità che servano anche da esempio per altri casi, da monito magari in altri casi che magari non sono finiti così bene, ecco, e comunque anche di esperienza per una vita da vivere e per una vita vissuta. E la scrittura davvero è una parte molto importante della mia vita. Io ho scritto 2 libricini senza avere alcuna presunzione di essere una poetessa o una scrittrice, però molto spesso noi scriviamo per noi o per i nostri cari, e quello che ho voluto fare anch'io in 2 occasioni della mia vita, forse adesso pubblicherò anche il 3° volume, un po' legati alla vita familiare, alla natura, al passaggio delle stagioni. Paragono sempre la vita ad un passaggio di stagioni. Nasce con la primavera, si sviluppa con l'estate, si raccolgono i frutti nell'autunno, che non è certo la stagione più triste, che è quella che sto vivendo anch'io a una certa età, l'età della pensione, no? Quella dei colori. Quella dei colori, quella dei frutti che si raccolgono, quella dell'esperienza nel arare di nuovo i campi per la nuova stagione, e quella dell'inverno, della quiete, del riposo, in cui una persona si metterà, come piace dire, a fare la comparsa e guardare lavorare gli altri. Sì. È un po' triste però mettersi così a ricordare, sì, la mia vita è stata così così. Però adesso si pensa che ormai si va verso un tramonto che si spera sia bello. Sì, ma un tramonto operativo, sì, sì. Un tramonto pieno di esperienza, un tramonto anche che deve lasciare spazio, perché ci sono i giovani che vengono avanti, per cui lasciamo a loro la strada, li osserviamo, magari diamo a loro qualche dritta, non dico qualche consiglio, perché molto spesso le persone che danno consigli non sono proprio tanto ben viste, e tra l'altro chi siamo noi per dare consigli, direbbe Papa Francesco, no? A meno che siano richiesti. Ecco, ma qualche dritta, sì. Qualche dritta che viene dalla nostra esperienza, no? Qualche correzione di rotta, se vorranno ascoltare. E noi in questa momento della vita stiamo a guardare, ed è molto bello questo. Io nella vita ho fatto tante cose, però anche poter dare spazio e fare un passo indietro, come si dice, è forse contemplare, una diciamo, cosa contemplare, sì, sì. Saggia, secondo sì. me. Anche sì, perché sì. Chiaramente è tipico della stagione ed è quindi fondamentale. Occorre l'azione, ma occorre anche la riflessione, presumo, se certamente. Ho colto correttamente il pensiero. Hai ragione, Antonio, è proprio così. Benissimo, sì. Allora noi possiamo passare alla seconda al prossimo brano musicale, Poster. Poster, sì. Seduto con le mani in mano sopra una panchina fredda del metrò, sei lì che aspetti quello delle 7:30 chiuso dentro il tuo paltò. Un tizio legge attento le istruzioni sul distributore del caffè, ed un bambino che si tuffa dentro ad un bignè. Da due anni qua, il nome di questa stazione è mezzo cancellato dall'umidità, un poster che qualcuno ha già scarabocchiato, dice vieni in Tunisia, c'è un mare di velluto ed una palma, e tu che sogni di fuggire via e andare. Braccia piene di sacchetti del lupino ed un giornale aperto sulla pagina dei films. E quanta che ne passerà, quei due ragazzi stretti stretti che si fan promesse per l'eternità, un uomo si lamenta ad alta voce del governo e della polizia, e tu che intanto sogni ancora, sogni sempre, sogni di fuggire via. Thank you. Ed eccoci di nuovo in studio e naturalmente continuiamo con questo interessantissimo ragionamento su paternità, riconoscimento, disconoscimento, identità, perché credo che siano, come dire, delle pietre miliari, dei punti fermi, dei paletti, dei sassi di Pollicino, un qualcosa del genere, o sbaglio? Certo, Pollicino che andava con i suoi sassolini in cerca. Ma mi piaceva sentire anche il parere della gesuina, perché su quello che ho detto prima mi pare che lei non fosse proprio d'accordo fino in fondo. Scusa, ripetimi. La gesuina mi pare fosse proprio del tutto cosa? D'accordo sul fatto di prendere le distanze a una certa età da quello. No, io non sono d'accordo, nel senso che secondo me finché è vero che dovremmo lasciare il posto ai giovani, però io sento che se posso fare qualcosa, se riesco ancora ad avere la forza di fare qualcosa, sì, giusto lasciare, però io ho bisogno di esprimere quello che in quel momento posso fare, posso dare. E dico, allora perché avendo una certa età non posso più dare? Cioè questa mi sento come imprigionata. Ah, gesuina, però io su questo sono perfettamente d'accordo con te. Sembra che non lo sia stata forse da quello che ho detto prima, ma mi piace correggere la rotta. Io continuerò sempre a fare, ma non vorrei più avere la responsabilità di guidare un settore particolare, un'associazione di volontariato, con tutti gli impegni, con tutte le responsabilità, anche camminando verso il futuro, perché magari sono necessarie anche altre idee. Però fare la volontaria, sì, se ho qualcosa da dare ancora lo voglio dare, sì, fino all'ultimo respiro. È una funzione diversa, perché altrimenti diventa un dire vabbè, mi metto da parte perché ormai ho una certa età e non conto più niente. È una sindrome da autoaccantonamento, se voglio questi termini. Forse. No, siamo perfettamente d'accordo, gesuina. Come ti dico, io sono ben lungi dal disimpegnarmi dalla vita sociale, dall'opera che ancora posso dare, perché tutti fino alla fine della vita devono sfruttare i talenti, no? Ce lo insegna il Vangelo, poi ci domanda dove li hai messi, certo, questi talenti. Sì, non possiamo talenti. Mantenerli sepolti. Però io noto che quando tu cominci ad avere una certa età, si tenderebbe a lasciarti un po' in disparte. E questo non riesco ad accettarlo. Mi sforzo, dico vabbè, ma non riesco ad accettarlo, perché molto probabilmente sento di avere ancora molto da dare. E non riuscire a darlo, no? O non poterlo dare solo perché hai un'età diversa, questo mi rattrista moltissimo. Ti capisco, gesuina, però penso che sia proprio questo lo sforzo che uno deve fare, nel senso che bisogna dare quello che si può dare, però è molto difficile fare uno sforzo di umiltà e dire forse l'idea dell'altra persona è più adatta a questo momento, più consona, e saper anche fare un passo indietro. Passo indietro è molto molto difficile. Questo per esempio lo si vede parlando di Noantri, no? Sì. Negli imprenditori, l'imprenditore capo di una grande impresa che ha costruito dal nulla e deve lasciare volare i figli, o i manager, ma parliamo dei figli anche magari, dei figli, no? Sì, sì. E il figlio magari che è bravo, che ha studiato all'estero, che ha il master, che ha le capacità, sa le lingue, però non ha l'esperienza, e il padre lo vede sbagliare e anziché dire tu non sei adatto, adesso ti dico io come si fa, saper lasciarlo anche un momento sbagliare perché tutti abbiamo sbagliato e abbiamo imparato grazie ai nostri errori. Certo, dopo essere sempre pronto come padre a non lasciare che gli errori magari travolgano anche l'attività o altri, però certe volte il passo indietro può lasciar volare gli altri, altrimenti è difficile farlo. Comunque, la sindrome del nord-est, ma anche la sindrome della politica, vero, perché uno deve rimanerci fino a 90 anni o 100 come la Montalcini. Perfetta donna di grandissimo valore scientifico, umano, però se la sua testimonianza fosse stata solo quella della partecipazione, ecco perché io per esempio sono critica nel fatto che i parlamentari sono stati nominati per meriti. Non dovrebbero avere diritto di voto, ma riuscire soltanto a trasferire in Parlamento la loro saggezza e non entrare nell'agone. Esatto, una testimonianza e non una funzione operativa, diciamo, ecco. E questo è fondamentale. E quindi continuiamo con questo ragionamento straordinario. Ecco, ho preso una piega molto diversa da quella che pensavamo. Allora, se vogliamo, è un arricchimento, diciamo, della discussione. Ecco, prego, prego. Ecco, se vogliamo poi parlare della storia della mia vita, io nata a Treviso, ho studiato al liceo Canova, il mio grande liceo qui trevigiano, però ho avuto l'esperienza padovana, ho studiato a Padova nella grande università del Bo, dove mi sono occupata anche di sport, perché ho avuto dei bei risultati con lo sci, ecco, questo per esempio, quando ero atleta nel SAI Padova e nell'UEI di Treviso, quando ero a Treviso, ma poi il SAI Padova, il CUS, cioè tutte associazioni a livello universitario. Quindi, bellissimo. E abbiamo girato un po' dappertutto con queste gare di sci e ricordo ancora, è stata un'esperienza molto molto bella, affiancare lo sport allo studio. E poi anche i miei esami per diventare avvocato sono stati fatti a Venezia e le mie prime esperienze, il mio primo caso come quello che ho citato prima, è stato trattato presso il Tribunale di Padova. Ho avuto un'esperienza romana perché mio marito ha seguito il suo professore di medicina a Roma e ho avuto un'esperienza romana di 3 anni in cui ho fatto la mamma soprattutto, e questa è un'altra gioia grandissima, certo, della mia vita. Sì. Ho avuto 2 splendidi ragazzi, una femmina e un maschio. Sono poi ritornata con mio marito nel Veneto e ho affiancato la mia professione a un impegno sociale e politico contemporaneamente, perché effettivamente l'associazionismo poi apre anche una porticina verso l'impegno politico, che è davvero, come dicono grandi filosofi, la più alta forma di volontariato. Esattamente. Esatto. Perché incide nella vita, certo, sociale. Certo. La vorrei interrompere un attimo soltanto, perché parlando di Padova, del Bo, eccetera, le statistiche più recenti, con grande orgoglio, ci dicono che è la prima in Italia per la ricerca. Veramente, questa è una grande. Diciamo che dobbiamo anche essere orgogliosi di noi altri, diciamo. Questo è, certo. chiudiamo l'inciso. E non ho abbandonato Padova, ogni tanto ci ritorno. Grande ambiente, decisamente. Grande ambiente, è stato formativo. Sì, decisamente. Ecco, prego, di nuovo, e ritorniamo alla dimensione umana. Alla dimensione umana, certo. Personale, ecco. Personale. Dopo ho aperto studio a Treviso e lì si è sviluppata l'attività professionale e, come dicevo, l'attività sociale di volontariato e l'attività politica, che ne è stata come una ricaduta, cioè per fare in modo che l'attività rivolta verso gli altri avesse anche una ricaduta di effetti, perché soltanto se tu sei all'interno dell'amministrazione hai la possibilità di veder poi realizzato un disegno che cui tu tenevi e che è condiviso dalle persone sì. che ti hanno votato certo, e certo. ti hanno magari votato certo. proprio per quel progetto che tu avevi dichiarato di voler portare avanti. Certo, quindi di incidere anche sul funzionamento dell'istituzione, certo. se posso dire. Certamente, certo. perché soltanto, come dicevo prima, se si ha un incarico operativo, si è in grado di incidere e di far avere dei risultati alla società sì, in cui perché, vivi. Sì, perché anche le nostre idee possono incidere anche molto positivamente su... Certamente. Dopo, come dicevo, c'è quest'altro aspetto invece più privato della scrittura. Partecipo al Cenacolo dei Poeti del SIL, poeti come dicevo, è una parola un po' grande per la mia piccola esperienza. Ah, fai parte del SIL anche tu? Certo, insieme alla cara amica Renata Alberti, Renata. Che con me condivide anche tante esperienze nel campo del volontariato. E in questo settore abbiamo fatto molte cose a livello culturale, perché quello che più interessava a noi all'interno del Movimento per la Vita, che è quello nel quale ho operato per più di 30 anni e ancora sono non più presidente ma semplicemente una volontaria, insieme a Renata Alberti ci occupiamo di insegnare, di far uscire, perché l'educatore è quello che conduce fuori, no? Sì. Dalle menti e dai cuoricini dei bambini la poesia, ed è un'esperienza straordinaria. Vediamo. Sì, so che anche la Renata si occupa di questa cosa. Esattamente. Certo, lei molto più di me, perché insieme abbiamo avviato il primo progetto quando io ero assessore alla cultura, e di poesia per bimbi, e poi lei ha continuato tutti gli anni a proporlo nelle scuole. Adesso siamo tornati insieme, abbiamo un progetto che si intitola Dentro la vita, ma poi ha molte sfaccettature, perché la vita non è solo quella che ti danno al momento del concepimento, della nascita, che ti hanno dato i tuoi genitori, ma è anche tutto l'arco della vita, sì. della vita. Certo. E allora bisogna far riflettere i bambini sul valore della vita, sulla dignità della persona, sul fatto che la vita è il risultato di una catena d'amore, e questo è il titolo del progetto, il sottotitolo, diciamo, del progetto di quest'anno, quello di riflettere sul fatto che noi siamo figli dell'amore dei nostri genitori, ma a loro volta anche loro sono figli dell'amore dei loro genitori certo. e dei bisnonni, certo. e risalendo si trova che cosa? Quella fonte d'amore primario, che è quella di Dio, che ha concepito questo bellissimo sentimento e questa bellissima realtà, perché poi l'amore è Gesù Cristo stesso, quindi la persona certo, esatto. di Gesù Cristo che si incarna, e questo amore corre lungo tutta questa catena, arriva fino a ciascuno di noi che ne siamo il portato, il risultato. E allora, parlando di questa catena, i bambini si sono commossi. In una classe si sono commossi tutti, in un'altra invece hanno cominciato a poetare come pazzi, tanto che non riuscivamo più a tenere dietro loro per fissare i concetti. Straordinario. Ed è una cosa veramente incredibile, incredibile, dico. Ritorniamo sull'argomento dopo aver ascoltato il prossimo brano musicale. Il prossimo brano musicale è Claudio Baglioni, Porta Portese. È domenica mattina, si è svegliato già il mercato, in licenza son tornato e sono qua per comprarmi dei blue jeans pensa al posto di questa divisa e stasera poi le faccio una sorpresa. C'è la vecchia che ha sul banco foto di Papa Giovanni, lei sta qui da 40 anni o forse più, e i suoi occhi han visto re, scannati, ricchi ed impiegati, capelloni, ladri, artisti e figli di... folla, le patacche che ti ammolla quello là, c'ha di tutto, pezzi d'auto, spade antiche, quadri falsi e la foto nuda di Brigitte Bardot. Ma chissà chi l'ha portata, quanto vuoi. Quella lì non è possibile che lei insieme a un altro, non è certo suo fratello quello, e se l'è scelto proprio bello, ci son cascato come un pollo. Ragazzi, che fate? Ma sti garzoni, li voglio o non li voglio? Porta Cortese, Porta Cortese, Porta Cortese, cosa avrai tu? Porta Cortese, Porta Cortese, Porta Cortese, cosa avrai tu? Naturalmente abbiamo il tradizionale siparietto Storie de che altri, nel quale cerchiamo così, con, naturalmente senza pretese di essere eccessivamente filologicamente corretti dal punto di vista linguistico, di parlare di emozioni, sentimenti e ricordi da un punto di vista degli altri, in questo caso del poeta portoghese Fernando Pessoa. Magnificat. Quando è che passerà esta noite interna, o universo? E eu, a mia alma, terei o meu dia? Quando è che despertarei desta raccordado? Non sei. O sol brilla alto, impossibile defitar. As estrelas pestanejan frio, impossíveis de contar. O corazón pulsa leio, impossibile de escutar. Quando è che passerà este drama sem teatro? O este teatro sem drama? E raccoglierei a casa. Onde? Como? Quando? Gato che me fitas com olhos de vida, che tens là no fundo? E esse, e esse, esse mandará como Josué parar o sol e eu accordarei. Então será dia. Sorri dormindo, minha alma. Sorri, minha alma. Será dia. Magnificat. Quando passerà questa notte interna l'universo e io, l'anima mia, avrò il mio giorno? Quando mi desterò dall'essere desto? Non so. Il sole brilla alto. Impossibile guardarlo. Le stelle ammiccano fredde. Impossibile contarle. Il cuore batte estraneo. Impossibile ascoltarlo. Quando finirà questo dramma senza teatro o questo teatro senza dramma e potrò tornare a casa? Dove? Come? Quando? Gatto che mi fissi con occhi di vita, chi hai là in fondo? Sì, sì, è lui. Lui, come Giosuè, farà fermare il sole e io mi sveglierò. E allora sarà giorno. Sorridi nel sonno, anima mia. Sorridi, anima mia. Sarà giorno. E con questa dissertazione di sentimenti volevo passare alla nostra ospite con una breve considerazione. Si parlava di catena d'amore. Il dramma, il problema è quando manca qualche anello a questa catena, o sbaglio? Talvolta succede, spesso succede nella vita attuale, in cui le catene si rompono e qualcuno decide di cambiare, di lasciare un impegno magari assunto e in nome di un amore nuovo, di una situazione diversa, certe volte anche dettata da un dramma. Ma la catena non si spezza mai. Io sono convinta che l'anello viene comunque riannodato. E poi ricordiamo che c'è sempre questo amore primario al quale noi ci rivolgiamo, perché non ci lasci mai navigare soli, ma ci riporti in un contesto di relazione. Mi piace per esempio pensare... Io sono nonna di una bimba adottata e questa bimba è entrata nella nostra famiglia proprio calata nella realtà delle nostre radici. E quindi mi è venuto un pensiero, pensando che questa catena era forse una catena diversa. No, è la stessa catena d'amore. E questa bimba ha siccome un incalmo. Ve lo dico in Veneto. Cosa c'è di meglio, di più pertinente e pregnante? In calmo, una parola meravigliosa. Sì, è un incalmo, cioè ase diventata un tocco del nostro albero, ase entrata fin sue radici, allora cambia. E questo fa sì che non... è neppure più importante l'aspetto biologico, ma diventa anche un aspetto biologico, perché questa bambina ci somiglia a tutti. Ha trasformato se stessa e ha trasformato la famiglia. Quindi vedete che l'amore riesce a cambiare anche la storia biologica. Questo è veramente un pensiero pregnante e profondo, devo dire, sì. E dal punto di vista invece delle separazioni, perché prima parlava di questo spezzarsi della catena, di qualche volta che un anello diventa più debole, allora anche qui ci sono dei rimedi anche dal punto di vista giuridico. Molti giuristi, soprattutto del mondo anglosassone, hanno elaborato delle pratiche che servono per poter trasformare una separazione, un divorzio, non più in un conflitto, ma in una collaborazione. Per me è giustissimo. Preso atto che i coniugi o comunque i compagni, perché adesso abbiamo anche le coppie di fatto, non riescono più, non ritrovano più quella comunione materiale, spirituale che caratterizza il vincolo matrimoniale o comunque la base dello stare insieme, bisogna saper collaborare, come si è collaborato per l'unione, collaborare anche per lo scioglimento, senza che questo provochi traumi né alle persone che sono coinvolte e neppure ai figli. Questo come si fa? Attraverso la pratica collaborativa. ci sono stati anche recentemente dei convegni, io ho partecipato qualche anno fa, ed è stato veramente illuminante vedere come è possibile squadernare tutta la propria situazione davanti all'avversario, che non è più un avversario, ma è il mio uomo, la mia la donna, diciamo, la mia compagna, il mio compagno, e non devo più nascondergli i miei redditi, i miei sentimenti, le mie difficoltà, ma le mettiamo insieme, le esaminiamo con l'aiuto degli avvocati abituati, addestrati alla pratica collaborativa, con l'aiuto dei commercialisti, degli psicologi magari, ecco, e riuscire a trovare la soluzione, farla trovare a chi poi questa soluzione è destinatario di questa soluzione. Quindi non più una sentenza calata dall'alto da un magistrato, mentre uno tira la coperta da una parte e l'altro la tira dall'altra, esatto, e magari i figli ne fanno le spese, ma attraverso un accordo trovato dalle stesse persone, e ci si lascia con dei sentimenti di amicizia. Difficile. È impegnativo. Impegnativo, arduo, mi pare. Ma basta proprio cambiare l'atteggiamento. Certo. E questo è questa è senz'altro una cosa che noi dobbiamo imparare a fare, anche come professionisti. Sì. Io credo molto a questa cosa, che si possa fare questo. Sì, certo, Gesuina. Ho avuto alcune esperienze, siamo riusciti con i colleghi a portarle in porto, anche se è una pratica che qui in Italia è entrata da poco, ma trovando dei colleghi con uguale disponibilità e dei coniugi che si lasciano anche guidare senza avere delle preclusioni o arroccandosi in atteggiamenti difensivi, ecco, è molto più facile trovare una soluzione equa, e una soluzione che gli stessi soggetti che poi la devono anche vivere e subire, diciamo fra virgolette, sono quelli che hanno contribuito a trovarla. Sì, certo. L'importante è trovare un modus vivendi civile per poter andare avanti, insomma. Certamente, Gesuina. Adesso, per fortuna, o purtroppo, vediamo finire tanti legami d'amore tra coppie, e per fortuna, diciamo, i bambini vedono che anche il compagno, la compagna, magari ha una situazione analoga alla propria, quindi si sentono anche di potersi confidare, di poter essere supportati, perché anche gli insegnanti hanno più esperienza su questo punto, i genitori anche possono aiutare, e per cui anche questa ricaduta nei confronti dei bambini, che pure non vi sto dicendo che non soffrono, che non esiste, soffrono, certo, e soffrono moltissimo quando sì. Si separano i genitori, però loro devono essere sicuri che l'amore è intatto da tutte le parti, e anche dai genitori e dall'ambiente familiare di ciascuno dei genitori, cioè intatto l'amore dei nonni, intatto l'amore degli zii, intatto l'amore dei genitori, di ciascuno dei genitori per loro, perché molto spesso i bambini si colpevolizzano e riescono a immaginare che addirittura che la causa della separazione dei genitori siano loro stessi. Siano loro stessi. E questo deve essere un dramma gigantesco, naturalmente, sì, anche perché non può non avere conseguenze sulla loro vita futura. Certamente, certamente. Questi sono drammi, direi che forse, ecco, ritornare naturalmente è una cosa che potremmo dire anche banale nella sua immediatezza. Ritornare alla parola di Dio sarebbe la soluzione, che richiede evidentemente uno sforzo di umiltà, forse, che è quello che è la cosa più... O Antonio, no? Tu hai detto la cosa più giusta, perché se noi ci rifacessimo di più alla parola di Dio, ma anche noi cattolici, che noi giuristi che ci cattolici, titolati, ci sappiamo, ci sentiamo titolati di poter decidere noi, fare noi, Gesù ci ha detto che senza di me non potete fare nulla, no? Ed è la pura verità. Ma non perché dobbiamo domandare a Dio tutte le volte che ci supporti in qualsiasi, sarebbe una cosa giusta e buona da fare, ma perché è il nostro riferimento, è il nostro creatore, lui sa come siamo fatti e per cui solo lui è in grado di darci i sassolini per seguire la strada e tornare a lui. Perfetto, sì. Allora noi ci fermiamo un attimo per un altro brano musicale che è... Sabato pomeriggio. Passerotto, non andare via. Nei tuoi occhi il sole muore già. Scusa se la colpa è un poco mia, se non so tenerti ancora qua. Ma cosa è stato di un amore che asciugava il mare, che voleva vivere volare, che toglieva il fiato ed è venuto mai. Non andar via, ti prego, passerotto, non andare via. Senza i tuoi capricci che farò? Cosa basta che sia tua, con il cuore a pezzi cercherò, ma cosa è stato di quel tempo che sfidava il vento, che faceva fremere, gridare contro il cielo, non lasciarmi solo, no, non andar via. Oh, Eccoci di nuovo in studio con la nostra ospite. Eccoci qua. Siamo ancora qui all'ultimo... All'ultimo round. Ecco, allora, parlavamo sempre di diritto di famiglia. Io faccio parte dell'AIF, l'Associazione degli Avvocati di Famiglia, e dell'Associazione dei Giuristi Cattolici. Entrambe le associazioni sono molto operative nel territorio. Soprattutto l'Associazione degli Avvocati Cattolici mi ha dato davvero un grande supporto, anche per capire meglio, alla luce dell'insegnamento di Dio, qual è l'atteggiamento che noi dobbiamo assumere nei confronti della persona che soffre, perché la persona che si trova in un giudizio, anche civile o peggio ancora penale, è una persona che soffre e che ha bisogno che noi avvocati non solo diamo un sostegno tecnico, ma che ci affianchiamo alla persona e che riusciamo a capire come possiamo esserle d'aiuto. Sì, un supporto morale, certo. Un supporto morale. Quindi è molto utile anche l'incontro mensile che noi facciamo anche con il nostro assistente Don Giuliano Brugnotto, che con una preghiera iniziale e con una riflessione anche sui temi pregnanti che andiamo ad affrontare volta per volta, ci guida anche nell'aspetto spirituale della gestione della nostra professione. E questo è molto molto importante a mio giudizio, perché ci dà un'ottica, ci illumina su una strada che noi dobbiamo percorrere. Ad esempio, sarà trattato quest'anno un tema molto molto importante, che è quello dell'amministratore di sostegno. Molte persone si sono avvicinate adesso a questo tipo di assistenza, che vuole non privare la persona in difficoltà per una questione di malattia, di età, eccetera, della propria capacità di agire e di essere autore delle proprie azioni, cioè, anche che hanno una ricaduta giuridica, ma di affiancarla, di essere d'aiuto per non sminuire la personalità del soggetto, ma per aiutarlo compiere gli atti. E questo non è facile, perché talvolta si nomina il parente più vicino quando non c'è la possibilità, magari, un avvocato disponibile a fare questo tipo di azione, ma anche sempre di più adesso sono entrate nell'ambito associazioni che offrono la possibilità di trovare al loro interno degli amministratori di sostegno. Ora c'è tutta una necessità di formazione di queste persone, sia dal punto vista giuridico e non solo, di approfondire l'argomento e di poter essere davvero molto più vicini alle persone, non soltanto sotto l'aspetto giuridico, ma anche sotto quello umano. Deve essere molto difficile, però. Sì, un compito senza delicato, però, senza però voler ledere, sì, no, non solo, ma anche voler essere il giudice, perché è logico che uno poi ha anche le proprie idee, i propri convincimenti, i propri sentimenti, no? Quindi l'avvocato non deve mai farsi coinvolgere fino in fondo nella realtà personale, spirituale, umana della persona che assiste, però deve tenerne conto e deve tenerne conto e quindi sapere essere non solo il giurista, come si dice, no? Il medico pietoso fa la piaga purulenta. Allora il medico, diciamo, ecco, non può essere un medico però il medico deve far propria la sofferenza del paziente, affiancarlo in questo. Certo, sì, non essere il medico pietoso, no. Come il giurista non deve essere il giurista che si fa coinvolgere nella situazione umana, però deve applicare il diritto perché è un tecnico, ma deve tener conto anche di questo. Anche di questo. Certo. Sì. E le situazioni... Io ho sempre paura di queste cose qua. Sono cose dolorose, diciamo, sì, sono situazioni che non si possono eludere. Molte volte, come dire, tendiamo magari ad accantonarle o a bypassarle, compagnia, gli ostacoli invece vanno affrontati, io presumo, non possono essere saltati o così bypassati. Non so se è d'accordo. Certo, ma sì, ma io sono d'accordo. Per esempio, anche il giudice deve decidere secondo diritto. Il giudice deve è assoggettato solo alla legge. Il giudice risponde alla legge. Esattamente. Ma non è che il giudice non debba applicare il buon senso, applicare l'umanità. Esatto. Applicare tutte le doti umane che sono corollario della sua esperienza tecnica. Perché se non c'è questo, la persona si avvilisce. Diciamo che andrebbe bene un riferimento ancora biblico al grande Salomone, evidentemente penso che è meglio. Certo, la Antonio. Datemi certo, la saggezza Antonio. Del cuore, ecco, questo mi pare ecco. Che sia... Questo della sapienza del cuore e della saggezza del cuore sì. È davvero la cosa più importante. Quando uno mi dice questa persona è intelligente, è una persona meravigliosa e poi magari ha un fallimento personale, sì. Ha una incapacità di rapporti e dico ma scusa, ma dov'è l'intelligenza di questa persona? La vera intelligenza è quella di essere felici. Se tu sei una persona felice che è appagata di quello che è, guardandosi allo specchio alla mattina, io credo che davvero questa persona poi anche nel suo operare è un operatore ottimo. Ottimo. Sì. E qui con questo profondo ragionamento non possiamo fare altro. Posso dire una cosa sola? Sì? Che la felicità tante volte bisogna proprio cercarla col lanternino. Hai ragione Gesuina. Esatto. Noi ringraziamo la nostra ospite per la sua sì. Profonda considerazione e non possiamo fare altro che dare appuntamento ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. A Dio piacendo, alla prossima volta. E io ringrazio ancora anch'io la nostra ospite e come sempre ai nostri ascoltatori dico ciao ciao. Ciao ciao anche da parte mia, buonasera. E buon inizio di settimana. Sì. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.